Allora, siamo all'inizio di Viale Manzoni, verso la testa del corteo. E dunque, intanto confermo che il corteo si è ingrossato, perché all'inizio del tunnel di Piazzale Tiburtino praticamente il corteo riempiva tutta la lunghezza di Via Tiburtina, da Piazzale del Verano fino al tunnel, quindi sicuramente al di sopra delle 3.000 persone, ecco, non si poteva, non era in posizione elevata, poi io non sono molto alto, quindi non riuscivo a vedere il fondo bene, ma la questione, diciamo, l'affluenza è grande. E pochi minuti fa c'è stato un grosso coro per richiedere la libertà di Emiliano, il compagno appunto ancora ristretto nella sua libertà, e la partecipazione è anche attiva, non ci sono solo i sound system ma anche parecchi slogan. Il movimento di lotta per la casa è veramente una componente importante di questo corteo, anche la partecipazione è trasversale, nel senso delle varie età che si incrociano, appunto dai bambini in carrozzella fino a persone di una certa età. Adesso volevo fare qualche domanda ai compagni e alle compagne occupanti del Regina Elena, e quindi un attimo che mi posiziono dietro lo striscione. Sono Radio Onda Rossa, vuoi raccontarci di come si è preparata questa iniziativa all'interno del Regina Elena? Si è preparata da un momento che non c'è casa e sta cercando di trovare un posto dove stare. Senti, tu dici, da dove vieni? Io vengo dalla Sicilia, ma sto qui a Roma dal 64. Due mesi fa mi ha preso fuoco anche un appartamento. E per questo che sei venuto a occupare? Sì, non c'ho dove andare, dove stare. Quindi, senti, all'interno del Regina Elena ci stanno gente di tutti i paesi, di tutte le nazionalità, come ti sei trovato? Diciamo, se è una persona che stai tranquilla, stai bene con tutti quanti, quindi non c'è nessun problema. Senti, hai partecipato, tu diciamo, non sei proprio giovanissimo, no? E hai partecipato ad altre iniziative di questo tipo prima di questa? Sì, cioè un anno e mezzo che sto sempre a fare dimostrazioni e tutto. Quindi diciamo è cambiata la giunta, però la necessità e il rischio è sempre la stessa. Il problema è sempre uguale. Sempre uguale, anzi, più salti è peggio, il problema aumentano. Non dire le bugie. Vabbè, comunque insomma la determinazione c'è, anche la partecipazione di oggi lo dimostra. Certo, certo che c'è, benissimo. Va bene, ti ringrazio. E eccoci qua. Allora, siamo Libertà per i Popoli Oppressi, c'è un pugno che spezza un missile degli Stati Uniti e siamo qui con Ricomincio dal Faro. Allora, io prima mi ero messo d'accordo qualcuno di voi per fare una corrispondenza con la radio. L'iniziativa abbiamo preparato assieme al coordinamento dei centri sociali, dopo anni che non si scendeva in piazza in maniera, diciamo, unitaria, collettiva, sulla rivendicazione comunque sia degli spazi che comunque i centri sociali rappresentano da ormai da quasi più di 20 anni dentro questa città. Oggi ci sembrava, visto anche il nuovo sindaco e la reazione che stava avvenendo in questa città, opportuno rivendicare la nostra presenza e i nostri slogan. Allora, siamo, intanto vi leggo quello che c'è scritto sugli altri striscioni: libertà reale, cittadini del mondo, ex SMIA, qui ci sta una rappresentanza della Malamurga, il lavoro si muore perché di precarietà si vive, lo striscione non morti del lavoro. E poi siamo qui alla TIR del laboratorio dell'Oacrobax, cartello in cui invece di affitto c'è scritto affitto, italo.